Breve storia della Costituzione. La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano. Firmata a Roma il 27 dicembre 1947 dal Capo dello Stato Enrico De Nicola, è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. È composta da 139 articoli con un'abrogazione che riguarda 5 di essi. La Costituzione è divisa in 4 sezioni. Gli articoli da 1 a 12 trattano dei principi fondamentali. Dall'articolo 13 fino al 54 dei diritti e doveri dei cittadini. Dal 55 al 139 dell'ordinamento della Repubblica. L'ultima parte contiene delle disposizioni transitorie e finali.